Capitolo 26. Un giorno d'inverno del 1915. Accampati sulla riva di un lago ghiacciato, uguale ad altri mille di quella regione, al confine tra due imperi. Un paesaggio familiare a poche verste dalla casa paterna. Battute di pesca e ricordi d'infanzia sommersi dagli incubi di sei mesi di guerra. Tecnologia dello sterminio. Amputazione sistematica di corpi e parole. Sotto la coltre bianca, distese d'acqua, chiazze di bosco sulla terra gelata, i pochi alberi sopravvissuti alle granate. Di quando in quando, il sibilo cupo dei colpi di mortaio, lampi, boati, eruzioni di neve e tronchi neri, le viscere di un mondo senza colori. Poco prima dell'alba, l'ordine di uscire dalla trincea, con l'elmetto in testa e il sacco in spalla, nella fila di uomini chini, tra i rami bassi degli abeti e i cespugli palustri in cerca di un riparo per il posto di medicazione. Raffiche di artiglieria intercalate da qualche tiro di mitragliatrice. La cadenza monotona delle vedette nemiche. Ancora lontatatatano. Costretti a camminare in fila per uno, lenti, incoraggiati e impauriti allo stesso tempo dal chiasso di ferro e scarponi. Sosta dietro un alto cumulo di zolle rivoltate, masticando una crosta di pane. Oltre la collina artificiale, un punto sguarnito dei reticolati tedeschi. Il filo spinato, preso di mira dai mortai e poi reciso nel cuore della notte, da una squadra armata di pinze, per un premio di pochi spiccioli. Al fischio dell'ufficiale il primo assalto, seguito da un secondo, un terzo, un quarto. La catena di montaggio della gloria. Fasce, stecche, lacci emostatici e boccette, apparecchiati sulla neve come una colazione all'aperto. Intorno la risacca di uomini laceri, nelle vesti e nelle carni, ubriachi di sangue. Urla di coraggio e strilli selvaggi, canto e controcanto senza intervalli. «All'attacco, aiuto, muoio, per lo zar, muoio, all'attacco, aiuto, maledetto lo zar!» Fantasmi e mutilati alla deriva, attraverso le colline, della Prussia orientale. Frammenti di proiettile da 152, minutissimi e penetranti, capaci di uccidere nel raggio di 500 metri. Uno sciame di vespe d'acciaio preceduto da una corrente d'aria calda, una brezza fatale. Mozziconi di respiro e di tronchi, impigliati ai rami degli alberi vicini, l'abbraccio della foresta ai suoi moribondi. Sotto le piante dei piedi, i battiti di un tamburo sotterraneo. Scoppi laceranti come un artiglio nello stomaco. Il maggiore Glazunov, riverso gambe all'aria, schiena a terra, per la folata improvvisa di uno di questi botti. Mettere una lettiga in mano ai bareglieri, ancora rintronati. Dall'orlo del cratere fumante, membra e frasi mozzate. Grida di pazienti impazienti, pianti per impietosire, cantilene da mendicanti, reclami in dissolvenza. Ogni colpo sempre peggio, le riserve di bende vuote in un amen. Barelle improvvisate con sacchi di tela e rami. Su e giù, da un ferito all'altro, con un tremito di stanchezza alle gambe, coi calzoni inzuppati di sangue ai ginocchi, con le mani che sanno di carne cruda. Impossibile soccorrerli tutti. Feriti al collo, alla spalla, ferite a doppio foro o di striscio, delle parti molli o della cute. Tre giovani siberiani, simili nei tratti. Il primo in piedi, con un braccio in braccio, il suo. Fasciare il moncherino e spedirlo al campo sulle sue gambe. Il secondo, assopito nel gelo, scosso dagli ansimi. Un colpo di mitragliatrice al torace, medicato e trasportato in barella. Il terzo, occhi tranquilli. La tranquillità crudele dei feriti all'addome. Un vero e proprio sventramento. Dall'ampio strappo nella parete addominale, una frana di intestini sulle mutande abbottonate. A ogni ispezione, ecco il fegato venire allo scoperto. Avvolgere le viscere in un pacco di garza sterile, iniettare morfina, schiocchi di lingua per chiedere da bere, poi delirio, con invocazioni alla mamma, voce infantile, in contrasto con la faccia abbronzata e la barba da uomo navigato. Due ragazzi, colpiti dallo stesso proiettile nella carica disperata verso la trincea nemica. Uno dietro l'altro, di corsa, e lo shrapnel in mezzo, a spezzare la fila. Quello davanti, cranio spaccato sopra la nuca. Cervello in vista, quello dietro senza faccia, anneriti come da fuliggine, spasmi di corpi in un viscidume vermiglio, appena il tempo di vederli morire. Sulle labbra ancora la madre. Forse la stessa. Natalia. Pagine di poesie dedicate a lei. Su un taccuino sgualcito, scritte con dita tremanti. Cara compagna, mia devota, moglie mia e madre. Nelle sue lettere le sole parole di conforto. Le uniche notizie sulla famiglia. Padre e madre sfollati a Minsk. Anna e Anatoli a Kiev. Anfusa e Kotik in fuga attraverso l'Europa, lontano da Parigi. La guerra in arrivo anche lì. Ospiti di un'amica a Barnaul, nell'Altai, più di 3.000 chilometri a sud-est di Mosca. La collina artificiale, misero riparo, ormai ridotto a una cunetta dalle esplosioni. L'occhio attento alle ferite, l'orecchio ai sibili delle bombe, per spostare il ferito e il materiale, a seconda della traiettoria e dei colpi. Costretti a intendersi soltanto a gesti, le grida coperte dal frastuono. Un fante di statura colossale con un enorme fardello. Di slancio, sul lago ghiacciato, in mezzo alla tempesta. All'arrivo, sulla schiena poderosa, l'ansimare di un compagno in fin di vita. Dietro front verso il lago, offrendo ai feriti, con delicata sicurezza, l'appoggio di un braccio, di una mano, di una spalla. Niente barelle, via i portantini incaricati di aiutarlo. Avanti e indietro così, per 4 volte, fino all'ultimo respiro. Assalto respinto, ritirata, niente conquista della trincea nemica. Gli strepiti di Glazunov in un telefono da campo, all'indirizzo degli ufficiali dell'artiglieria. Al di là del varco nel reticolato, nascosta da un fosso, un'altra barriera, del tutto imprevista. Inciampo fatale per decine di soldati. Nei racconti dei superstiti, l'orrore di cadaveri e uomini in fin di vita, a cavallo del filo spinato. Rapida decisione. Salvare i salvabili con l'aiuto del buio a metà pomeriggio. Il grosso della truppa infila verso il campo, neve dal cielo e morte sulla terra. In attesa delle prime stelle, un sorso di vodka per illudersi di avere più caldo. Come azionato da un meccanismo a orologeria, ogni 5 minuti esatti un proiettile contro la collinetta di terra smossa, per mangiarsela un boccone alla volta. Febbre gelida, brividi fin dentro il cervello. Un desiderio incontenibile di mettersi in piedi, uscire allo scoperto, le mani alzate bene in vista. Basta guerra, basta esplosioni, basta fingere di curare ferite mortali. Uno schianto, pioggia di schegge, ramoscelli e terra, costretti a scavare come conigli per rivedere il cielo. Contro le nuvole, un pulviscolo impazzito di macchie nere. Mano alla borraccia, una sciacquata agli occhi, ancora pieni di sabbia e terriccio. Niente da fare, la vista ancora crivellata di atomi scuri. Uno stormo, una flotta. Orecchie tese, il tipico ronzio dei motori nacuniani, sagome di eteronavi in avvicinamento, più veloci di qualsiasi aeroplano, compatte, inesorabili, in rotta sulla terra di nessuno, in mezzo agli eserciti. Un'invasione per riportare la pace, il socialismo, la tecnologia della vita. Fasci di luce abbagliante in ricognizione, sul cimitero di alberi, uomini e ferraglia. La carlinga trasparente della prima eteronave ormai sopra la testa, sempre più luminosa, sempre più grande. Ecco, da questa parte, braccia in alto, segnali di manovra ai piloti, affermativo, spostarsi a sinistra, spegnere il motore principale, prepararsi per l'atterraggio. Benvenuti compagni, bentornati. Uno strattone deciso sul braccio. Malinowski, dove diavolo vai? Vuoi farti ammazzare?